Voci dal giro. Ancora una buona giornata a tutti. Giro d'Italia che si appresta a lasciare oggi la Danimarca. Ieri a Herning volata con vittoria di Cavendish davanti a Goss e molti favoriti tagliati fuori da una caduta nel finale. Destino toccato pure all'azzurro Guardini, sprinter di talento che pure aveva trovato in Pippo Pozzato un gregario d'eccezione. Volevo dare una mano a Guardini perché comunque è giusto che ci provi, è giovane, è uno che ha dimostrato di poter vincere delle belle volate, quindi ci tenevo a dargli una mano. Ho provato a portarli davanti, però mi hanno perso un attimo e poi quando ho visto che ero lì davanti da solo ho cercato di tirare tranquillo, tra virgolette, non dare tutto per riuscire a tenere il gruppo un po' in fila e poi riportarlo su, però erano troppo dietro, alla fine mi sono spostato. Oggi ancora una buona occasione per gli sprinter, sentiamo. Ultimo giorno in Danimarca prima di rientrare in Italia, prima di riprendere il cammino mercoledì con la cronosquadra di Verona. Ultime pedalate lungo il Mar Baltico dove il vento soffia forte e il freddo si fa sentire. Tappa sulla carta per velocisti come quella di ieri finita il campione del mondo Mark Cavendish, che oggi è nuovamente l'uomo da battere. Si parte da Horsens con l'americano cresciuto a Marostica e ora residente a Lucca, Tyler Finnell, che ieri a 8 km dal traguardo ha rischiato di veder svanire tutto a causa di una banalissima caduta. Le cadute, il vero avversario che i corridori del Giro devono evitare come la peste in queste fasi iniziali. Tutti vogliono mettersi in mostra, ma tutti non possono fare una volata di testa. Il Giro riparte comunque stamattina da Horsens, cittadina che attendeva festante la Corsa Rosa e che quest'oggi si trova a dover piangere Jan Trøyborg, 56 anni, sindaco della città, che ieri mattina, mentre stava pedalando con i suoi concittadini, ha accusato un malore. Aveva voluto fortissimamente la nostra corsa, aveva lottato a lungo per coronare questo progetto. Oggi il Giro gli renderà omaggio. Siracusa Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Horsens. Il Giro ritorna alle 13 alle 19 con il racconto esclusivo per Radio 24 di Ivan Basso e poi nel corso di A Tempo di Sport dalle 14 sul nostro sito www.radio24.it tutte le informazioni per partecipare al nostro grande concorso. In palio il polsino di Radio 24 con cui Basso sta affrontando il Giro d'Italia e la possibilità di vivere una tappa della Corsa Rosa sull'ammiraglia della Liquigas Cannondale. Un saluto da Dario Ricci. Voci dal Giro.